Mauro, tu ci hai detto che presso gli antichi greci la scuola si faceva a partire dalla musica e dalla danza, e quindi il nome musiche. Ora, io ripensando a come ho vissuto la scuola, per me la scuola è stata veramente faticosa. E vorrei certo diventare magari un po' più giovane, ma non per favore tornare negli anni della scuola, no. Allora, se io penso alla musica e alla danza, io penso alla felicità, cioè per me la musica e la danza mi danno un piacere enorme, un piacere di vivere enorme. Allora, se la nostra scuola è stata completa, la nostra scuola, la nostra vita, il nostro ambiente di lavoro, sono state tolte la musica, Demusicalizzati. sì, la musica, il ritmo, la danza, non c'è mai stata, forse non ne parliamo nemmeno. Quindi ci sono stati tolti quegli elementi che danno gioia. Allora, se io ripensassi di poter tornare a scuola e trovare una scuola che si basa su questi elementi, io ci andrei subito a scuola, Certo. subito. Allora, mi veniva da pensare questo, ma guarda, non sarà un caso, ma se il mondo neoliberista, o comunque il mondo che ha le radici nel neoliberismo, ha voluto per noi una scuola che è un dovere e non un piacere, e per prepararci a un lavoro che è un dovere e E non non un piacere. piacere, noi alla fine, quando tu mi parli di musica e di danza, io penso, no, vabbè, prima il dovere, poi il piacere. Abbiamo imparato che quella roba lì si fa solo se c'è tempo e se ce la siamo meritata e guadagnata. Quello che si deve fare da bambini, dalla scuola materna alla prima Poi elementare in poi, inchiodarsi in un banco, stare fermi 5 ore. è Questo è quello non che provare piacere, ma occuparsi del dovere. sì. E quindi tutto questo discorso. Allora, ecco perché, per esempio, perché la mia storia personale è così lontana dal ritmo. Quando tu hai cominciato a parlarci qua, anche in casa, Ale, fa camoglie del ritmo, per me è una cosa così lontana dalla mia vita. Perché io non ho praticato la musica, non ho fatto la musicista. Beh, Ho cominciato molto recentemente a hai occuparmi studiato della mia. musica? Beh, a scuola era una cosa che si faceva Due, così, tre. uno, due, una pena Ma tremenda, questo quando fai una così, sofferenza proprio. quando fai così sei fuori dell'ordine della musica. Se Ecco, fai uno, due, sei già due. fuori. Era una suora, una Non ci suorina tutta sei. impomatata che ci insegnava questo. Sembrava che le avessero. Era carina, però io soffrivo anche in quelle ore di musica. Avevo fatto le magistrali, quindi secondo loro ci insegnavano queste cose qua. Battere, levare, perché poi noi come maestre, avrei dovuto diventare maestra, avremmo dovuto andarle a insegnare ai bambini delle elementari queste cose. Così, uno, È due, tremendo. tre. Quando dici Micidiale. uno, Sì. due, uno, Sì. due, uno, non Sì, sei nella musica, sei nella meccanica. nella Cioè meccanica. Esatto. sei nello stesso tipo di pensiero che poi si genera e produce le bolle finanziarie, la prevaricazione di popoli più armati sui popoli Ok, disarmati, l'oppressione dell'uomo sull'uomo, esatto. dell'uomo sulla donna, dell'uomo sulla Ecco, natura. e a proposito di quello, mentre per esempio il passo dei Masai è una danza e loro fanno dei percorsi anche molto lunghi, o camminando o quasi correndo, si vede che non c'è un ritmo danzato e non fanno fatica. Poi ripensavo appunto queste cose che ci stai dicendo. Ripensavo a che cos'è invece la marcia militare. Pensa al passo dell'oca, pa, pa, Ecco. i soldati devono diventare degli automi, Esatto. cioè devono essere telecomandati dall'alto. Quindi c'è un ritmo, ma è un altro tipo, non ha niente a che Allora vorrei fare con. chiarire bene, oggi non è una società senza musica, ce n'è troppa che impedisce alla vera musica di arrivare alle nostre orecchie e al nostro cuore. La musica che c'è in giro normalmente è una musica che farebbe orrore ad ascoltarla da veri musicisti, perché è una musica in gran parte che è una musica esteriore, è una musica di compensazione. Si basa sulla potenza del suono, enorme quantità di suono, cose molto semplici, meccanizzate, ormai si fa la musica commerciale, ormai si fa come si fanno i biscotti, agli industriali. Ecco. Quella non è più musica, dovremmo distinguere, non dovremmo più usare la stessa parola per cose che sono così diverse. Così come usiamo la parola amore, gran parte di volte vuol dire dipendenza e vuol dire odio non manifestato. Quindi aveva ragione Freud. Se tu tieni conto della cultura in cui siamo, se qualcuno ti dice che ti ama, ti conviene prendere e scappare sul primo monte. Perché di solito vuol dire io voglio possederti, cioè tenermi nel mio possesso. Allora ci stiamo parlando di due culture completamente diverse. Una cultura radicata nelle verità profonde e una cultura secondaria, così come esiste la struttura primaria, quella animica, esiste una struttura secondaria, quella egoica. La struttura secondaria genera la cultura secondaria da essa generata. Noi stiamo parlando, viviamo in una struttura secondaria, quindi fare tante analisi dettagliate, la struttura secondaria equivale a fare le analisi di alpinisti che volano in parete, quanti modi ci sono per ammazzarsi, è infiniti. Ah, invece è molto interessante confrontare la struttura primaria con la secondaria, perché per esempio è nella secondaria che appunto tu ci facevi notare, che vengono fuori quegli atteggiamenti mentali di pensiero ossessivo, che poi possono diventare azione ossessiva, che sono tipici della cultura secondaria e che tu stai facendo questa esperienza di sciogliere questa ossessività attraverso i ritmi invece della cultura primaria. Certo, l'ossessività è una ripetizione meccanica. Anche il ritmo può essere una ripetizione meccanica. E tu quindi puoi agganciare la struttura ossessiva facendogli fare del ritmo. Ma se questo ritmo dopo ci metti la vita dentro, allora cosa succede? Hai ucciso il serpente col suo stesso veleno. Hai chiappato l'ossessività, visto che l'ossessività ripete sempre le stesse cose, se faccio un ritmo, tatatigita, tatatigita, tatatigita, tatatigita. Può essere meccanico. Ma ci manca, ci vuole pochissimo perché diventi invece vivo. Quindi io chiappo l'ossessività e poi la porto nella vita. Ecco, questo è il passaggio. Ed è estremamente interessante che ciò che è ossessivo, cioè il pensiero ossessivo, l'azione ossessiva compulsiva, danno un senso di malessere profondo. Infatti le persone cercano una via d'uscita. Certo. E ribaltare questo invece nella struttura primaria, che è quella del gioco, della gioia, del movimento libero, creativo, invece dà una gioia enorme, un piacere. Guardate qua, enorme. Se noi secondiamo il flusso, siamo nell'essere, non nell'avere, nel possedere, eccetera. Quando siamo nell'essere, il test è semplice. Come faccio a sapere se sono nella mia struttura primaria, cioè sono, anziché cerco di apparire, cerco di possedere? Come faccio a saperlo? È molto semplice. Il corpo prova piacere. Nella psiche c'è felicità, a livello spirituale c'è gioia. E la gioia nello spirito è senza cause, senza condizioni. Questo può avvenire solo se c'è un retto uso dell'intelletto. Se non finiamo nell'errore dell'intelletto, da cui deriva la sofferenza. Ecco, io penso che, credo che tutti sogniamo una scuola dove non si vede l'ora di andare e ci dispiace tornare a casa. Aspetta. Ma sogniamo ancora di più una scuola in cui non si vede l'ora di andare, ma mentre ci si va là, si ha un po' di dispiacere perché si abbandona la casa dei propri genitori, dove si sta benissimo. E quindi poi quando si va a scuola e si vuole tornare a casa, c'è un piccolo dispiacere nel tornare a casa, non perché la scuola è così piacevole. E quando si torna a casa c'è il piacere. Si va dal piacere al piacere, non dalla sofferenza all'altra sofferenza. Oggi il mondo, la gente va a lavorare perché non ne può fare a meno. Siamo degli ridotti a degli schiavi salariati. Chi ha difficoltà a capire queste cose, si vada sul sito di economia che fra poco sarà pubblicato, fra un po', e capirà perché ci siamo ridotti così. Oggi lo sappiamo. Quindi il futuro, la nuova umanità di cui parla Marco Guzzi, con cui siamo continuamente in contatto e speriamo presto di creare veramente l'idea di creare una nuova università, la butto lì, è questo, di creare un luogo dove si parte da ciò che è vivo dentro di noi e non da ciò che è morto o malato, e imponendo ai bambini la malattia fin da piccoli. E poi vedendo quanto il costo della sanità aumenta, ma lo credo, stiamo facendo pratiche di malattia, non pratiche di guarigione. Okay. Grazie. Grazie a te.